Le note di Task dei Fleetwood Mac, con loro superiamo le ore 11. 11 e 5, siamo quindi entrati negli ultimi 60 minuti, poi alle ore 12. Vi lascerò, come in questo ultimo periodo sto facendo, insieme a Claudia. Un saluto a tutto lo staff, ci viene da Tonis, DJ dell'area milanese di musica anni 80. Siete unici, dice, anche perché siete riusciti a passare i mitici Lynyrd Skynyrd. Non è da tutti. Long live rock and roll. Grazie Tony, buona giornata anche a te. Un saluto ad Ale, un saluto anche all'M64 che dice: sono triste, pieno di rancore. Quel minuto di silenzio dopo Pane, Burro e Rock and Roll mi ha un po' così scioccato. Non mancherò il 31. Grazie quindi Lem. Continuiamo, lo facciamo con il pianoforte e tra breve anche la voce di Bruce Hornsby and the Range. Just the Way It Is per Bruce Hornsby and the Range. Un salutone ad Angelica da Firenze, e ci si vede proprio a Firenze il primo di giugno alla Flog. Un salutone anche agli amici Paolo, Rosario e Ale da Genova che stanno tinteggiando una facciata di un palazzo e ci stanno ascoltando. Un salutone alla Claudia, appena arriva lo trasmetterò naturalmente. Le nostre mail sono sempre valide dopo il 31, quindi Marco, Claudio e tutti gli altri, @rockfamily.it. Un saluto anche ai fratelli Bikers Brigade da parte di Ringhio. Ancora Yuri da Ravenna, anche a te buona giornata. E un'altra notizia legata alla formazione degli Who, 23 maggio del 79, il film biografia, a proposito appunto degli Who, cioè The Kids Are It Alright, di Jeff Stein, viene presentato a New York. Parallelamente esce anche un omonimo album doppio con 19 canzoni che ripercorrono la storia della band. 2 alle prese con questa cover da loro proposta, altra cover anche la prossima, versione intensa sentita di I Put a Spell on You, Creedence Clearwater Revival. Spell New, la versione proposta alle 11.23 su Rock FM è quella dei Creedence Clearwater Revival. Un saluto ad Elisa, se non sbaglio, devo vedere la mail da parte di Cristiano sulle note di questa canzone che ci porta ad ascoltare loro, Pearl Jam, questa è Even Flow.